avec des yeux d'opale, qui me fascinait, il y avait l'ovale de son visage pâle, de femme fatale qui me fut. Melog 2.0 di Gianluca Nicoletti. Chacun pour soi est reparti dans le tourbillon de la vie. Je l'ai revu un soir, aïe aïe aïe. Ça fait déjà un femme bail. Ça fait déjà un femme bail. Au son des banjos, je l'ai reconnu. Ricordatevi di noi. Anche noi abbiamo vissuto, amato e riso. Questa è una tipica iscrizione che si può trovare su un cimitero di campagna. Ricordano i morti, che in fondo sono stati anche loro vivi, e per suscitare un po' di pietas nel viandante frettoloso dicono che hanno vissuto, questo gliene può importare un po' niente. Hanno amato, sì, vabbè, gli amori altrui non interessano molto, ma abbiamo anche riso. Il fatto che loro abbiano riso è fondamentale, è importante. È l'unico barlume che potrebbe risollevarci dall'indifferenza e ricordarci una persona che ha riso è stato un essere umano. E quando noi abbiamo riso nell'età in cui ridere faccia parte del quotidiano. Non come oggi, che è una irruzione del tutto improvvisa, inaspettata. Noi ridevamo quando giocavamo con le figurine. Io ricordo momenti fantastici, anche se non sono mai stato appassionato di figurine. Anzi, penso di non aver mai comprato una figurina in vita mia, ma ne avevo tantissime, perché pur essendo negato ad ogni forma di gioco, ero un fantastico giocatore di figurine. Mi piacevano tutti i giochi con le figurine. Avevo un mazzettone di figurine di calciatori di cui non individuavo nemmeno i colori delle squadre. Non capivo nulla di calcio, ma avevo tantissime figurine di calcio. Perché? Perché nelle ore di ricreazione, nelle ore libere, nelle ore dedicate appunto al riso lecito, non il riso strappato furtivamente sotto il banco con il timore di essere bacchettati, io giocavo a figurine. E le ricordo in tutte le loro fasi queste figurine. Ricordo quelle di cartoncino, un pochino più rozze, che si attaccavano con la colla che era buona anche da mangiare, perché sapeva di mandorle. Ricordo più là che vennero quelle autoadesive, già era qualcosa di un pochino più fighetto, mi piacevano meno, anche perché ci giocava male, perché in realtà le prime potevano anche essere ristaccate, si poteva continuare a giocare anche quando si sgraffignavano dagli album altrui. Invece quelle autoadesive, una volta attaccate, rimanevano indissolubilmente legate a quell'album. Poi, andando avanti, sono venute delle figurine che non avevano più nemmeno la forma standard di rettangolino, erano fustellate. Quando uscì il primo album fustellato fu una novità, era un album fustellato di dinosauri. C'era lo sfondo già sull'album e si potevano attaccare i pezzetti di dinosauro che andavano a incastrarsi nella terrificante natura preistorica, e molte volte assieme ai dinosauri c'erano anche uomini primitivi che tiravano pietre, che era un totale anacronismo, ma a noi non ci interessava. Andando ancora avanti, le figurine diventavano sempre più belle, sempre più plastificate, e uscì dall'età in cui ridere era lecito e quindi non giocai più con le figurine. Leggo in questi giorni la notizia che oggi le figurine sbarcheranno sull'iPad, sull'iPhone, quindi le figurine diventeranno qualcosa di fruibile attraverso le nostre protesi elettroniche. Non ho nessun pregiudizio nei confronti della trasmigrazione da supporto in supporto dei nostri strumenti dell'immaginario fanciullesco. Certo è che il momento fantastico era, per me, poco vissuto, perché dicevo non compravo figurine, ma assistevo all'apertura della bustina delle figurine. Ricordo che i miei compagni di scuola avevano della sorte di rituali scaramantici prima di aprire la bustina delle figurine. Perché? Perché speravano sempre nella figurina rara, in quella che a loro mancava per terminare l'album, e quindi pregavano, facevano scongiuri, le aprivano piano piano come un giocatore di poker quando spilla le carte per centellinare il piacere di capire che carta in mano. Io dicevo non ho mai terminato un album, non ho mai finito un album, però c'erano persone bravissime che facevano tutto il loro bell'album a tempo record, lo mettevano tutto bello ordinato e piegato nell'armadietto della loro cameretta. Io sono sempre stato un cialtrone anche giocando alle figurine. La storia del West, conquistadores, pionieri indiani e tante altre storie dell'epica conquista del West. Album completo con tutte le figurine autoadesive e tanti disegni da colorare. Ehi ragazzi, questa è una delle 12 meravigliose figurine adesive della serie Far West che Pop Ambrosoli ti regala. La serie completa è composta da Buffalo Bill, Generale Custer, Geronimo, Nuvolo Rossa, Toro Seduto, Danza per la Caccia, Donna Indiana, Marchiatura di un Manzo, Assalto al Treno, Abilene, Cacciatore di Bisonti. È un'occasione da non perdere. 800240024, cosa suscita nella vostra memoria profonda l'album delle figurine, il gioco delle figurine? Le figurine si tenevano in tasca, si tenevano nei taschini segreti, si infilavano dentro i quaderni, ci si portavano dietro. Oggi almeno le statistiche dicono che una percentuale più alta dei collezionisti di figurine sono adulti. Non so quanto i ragazzini ancora comprino le figurine. Sì, le comprano, quelle legate ad alcuni personaggi di cartoni animati o alcuni personaggi di fiction o eroi dei loro videogiochi. Vedo che ancora le mamme vanno all'edicola e cercano quella o quell'altra figurina, ma è un po' diverso. Esiste come sempre una segnatura generazionale in ogni attività fanciullesca, come appunto il gioco delle figurine. Quindi chiamate e raccontatemi cosa hanno significato per voi le figurine, l'album delle figurine, il corredo illecito di ogni scolaro che assieme ai libri di scuola, assieme ai quaderni, assieme al corredo ortodosso si portava l'eterodosso pacchetto delle figurine. Io vedo che comunque anche nei luoghi più benedetti dal pensiero avanzato e dall'innovazione, come appunto Facebook, l'idea stessa di aver rievocato le figurine ha suscitato immediatamente una reazione. Tutti mi scrivono la frase tipica dello scambio delle figurine, che è il momento del più felice mercimonio. Io e te ci confrontiamo le reciproche collezioni e vediamo se i miei doppioni coincidono con i tuoi doppioni e con le figurine che a entrambi servono. La frase è cielo, cielo, manca. Ce l'ho, manca, perché si faceva velocissimo. Si scorrevano velocissimo le figurine e si mettevano da parte quelle che erano ambite e poi si negoziava, si trattava. Una poteva valere due, una poteva valere tre, poteva essere fatto uno scambio alla pari, potevano entrare altre categorie merceologiche nello scambio delle figurine. Mi scrivono altre persone, dicono ad esempio Fabrizio: mi ricordo che mi mancava solo lo scudetto del Verona, andai da mio cugino e vidi che lui l'aveva. Appena rimasi solo, staccai con attenzione chirurgica lo scudetto e lo riattaccai al mio. Il mio unico album, che godura quella volta, è vero. Il furtivo staccamento della figurina, per noi rara, e per il nostro amico Secchione probabilmente era una delle tante, è una delle attività che si faceva molto volentieri. Infatti dicevo, finché si attaccavano con la coccoina oppure addirittura con la colla fatta con acqua e farina, era permesso lo staccamento. Quando diventarono autoadesive, diventarono impossibili da essere tolte furtivamente dall'album altrui. Davide: ho terminato soltanto l'album degli Snorkis, non ricordo cosa sia, forse una roba di tempi che non ho frequentato in età fanciullesca. Eleonora: che rabbia, quando ne trovavo la mancante, ma avevo soltanto tanti doppioni, al momento dell'apertura fatidica della bustina. Poi Armando: e Spagna 82, l'avevo finito, che album, ricordo gli scambi figurine con gli amici, cielo cielo manca manca, ecco naturalmente, ce lo manca. Piera Sozzo dice: cosa darei per il mio album di Sandokan? Sì, perché non c'erano soltanto figurine legate al mondo del calcio, furono le prime, probabilmente le più scambiate, di figurine ce n'erano categorie immense, perché molte volte gli album avevano la pretestuosità di essere uno strumento didattico, perlomeno di supporto didattico. Ricordo che l'album veniva regalato, veniva a scuola un signore, regalava ad ogni bambino un album con la prima bustina delle figurine. Ci sembrava un regalo fantastico, ma in realtà era il terrificante amo perché noi continuassimo a comprare le figurine. Ai miei tempi il pacchetto di figurine costava o 5 o 10 lire, pensate in che arcaico periodo affondano i miei ricordi fanciulleschi. Costava 10 lire l'album delle figurine, che noi sgraffignavamo dal resto della merendina. Michele, buongiorno. Ciao, ciao Gianluca, ciao a tutti. Allora, dicevo, è il tempo che passa, caro Gianluca. Io vedo i bambini oggi, lo stesso mio figlio, insomma, giocano comunque con le figurine, comunque ce le hanno. Non sono più le stesse, nel senso che noi, magari la mia generazione, la tua... Le tue quali erano le figurine? Vediamo se ti ricordi che figurine usavi. Sicuramente quella dei calciatori. Ma di quale generazione? Non facevo cambio con nessuno. Ma di quale generazione? Di quelle in cartoncino che si incollavano o quelle già autoadesive? Ovviamente quelle della Panini e quelle con gli adesivi. E quindi sei più giovane di me, hai già una generazione avanti. Beh, io sono un quarantenne, uno splendido quarantenne. Io sono un fradicio cinquantenne, quindi come vedi dieci anni... Va bene, va bene. Tanto. Oggi a me domani a te. Sì, volevo ancora dire, io comunque guardo e osservo i bambini, soprattutto insomma che giocano con queste figurine, che sono più complicate, molto più complicate delle nostre. Guarda, io su questo sono parzialmente d'accordo con te. In che senso complicate? Ma perché innanzitutto ci sono sono collegate a dei giochi che loro riescono a capire tra di loro, a giocare, pensano, non so, ai combattimenti di questi personaggi, a come si possono interscambiare, a come si possono collegare addirittura con questi strumenti di PlayStation. Come vedi, sarai uno splendido quarantenne, ma in realtà c'è stato un salto generazionale talmente forte, talmente violento. Ma io l'apprezzo! Sì, però sfuggono gli strumenti di comprensione. Oggi la figurina è parte di un grande gioco di intrattenimento che coinvolge appunto la PlayStation, i videogame, i cartoni animati. Oggi c'è un multitasking ludico dai bambini. Noi ci accontentavamo di delle figurine attaccate con lo sputo, ci bastava, ma noi in effetti gli anni sono passati. Gianni, buongiorno. Eccomi. È un piacere parlare con lei. Andiamo alle tue figurine, le figurine della tua vita. Le mie figurine, io essendo nato nel 75, la mia collezione risale a metà degli anni 80, ricordo Rummenigge. A me della collezione Panini, delle figurine, non me ne è mai importato nulla, però mia madre pretendeva che io facessi la collezione delle figurine perché tutti i bambini della mia età... Sì, i genitori, questa è una sindrome che permane anche ai tempi nostri, hanno questa sorta di ossessione che i figli non siano accolti dal gruppo degli altri amici, quindi li costringono a fare attività che ai bambini molte volte schifano, tipo gite scolastiche, pomeriggi a casa degli amichetti, attività ludico-sportive, e quindi anche la collezione figurine, perché dice... Se no il gruppo, tanto hanno terrore del figlio emarginato, e non sapendo che l'emarginazione ai tempi della scuola crea la genialità ai tempi adulti, nei tempi dell'età adulta, e quindi costringono a fare queste cose. Quindi ci sono le mamme che costringono anche a fare le collezioni di figurine. Esatto, per l'etichetta, bisogna fare la collezione delle figurine. Assolutamente, anche se non ce ne importa nulla. Esatto. Questo è un dato molto interessante. Valerio, buongiorno. Buongiorno, io come l'ascoltatore precedente non mi importa niente le figurine, però la cosa che ricordo, che mi è rimasta impressa della mia infanzia, queste figurine venivano, per poterle scambiare, venivano messe a mucchietti e quindi con uno schiaffo bisognava girarle. Era uno dei tanti giochi, non era l'unico, eh. Sì, però ecco, ricordo questo rapporto che era fisico, cioè uno era bravo se riusciva a girare molte figurine, quindi non c'entrava anche, non era importante. Un altro gioco era tirarle dal tavolino verso il basso, quando una figurina sovrapponeva un'altra si vinceva la figurina. Per esempio, sì, molto bello. Sì, diciamo, in realtà è uno strumento di gioco, c'erano i collezionisti, però... maniaci di calcio o maniaci della disciplina rappresentata nelle figurine, che le compravano per fare l'album. I Lazzaroni, come eravamo noi, le avevano tutte unte, schifose, rovinate. C'era quella per... C'avevamo sempre la figurina fuori serie. Con le mani rosse, sempre con le mani rosse, blu, di certe volte diventavano per gli schiaffi che davamo sul marmo. Poi mi ricordo, c'avevo sempre la figurina fuori serie, quella che secondo me era vincente, quella che funzionava meglio delle altre. La tenevo come si tiene, non lo so, la stecca da biliardo, il giocatore professionista, che è quella che usavo nelle grandi occasioni. Eh sì. Belinda, buongiorno, una donna. Belinda c'è? Belinda? Belinda è scomparsa. Perché a me piacerebbe se chiamano all'800 24 0024 anche le signore. Perché io vedo che su Facebook molte signore parlano della loro passione per le figurine. Fatevi coraggio anche voi che state a casa. Intanto introduciamo quello che è il primo ospite della mattinata. Professor Umberto Bartocci, buongiorno. Buongiorno, dottor Nicoletti. Mi fa piacere ascoltarla. Allora, il professor Umberto Bartocci, non vi sembrerà una battuta, è un professore di geometria e matematica all'Università di Perugia, quindi è un cattedratico illustre, e ha fondato il Museo Virtuale delle Figurine, con foto di collezioni degli anni 50, 60 anche prima. Il sito è www.cartesio-alto-episteme.net. E Bartocci, lei viene dalla mia stessa terra di follia, quindi condividiamo alcune passioni, anche se non proprio quella delle figurine. Quando ha cominciato a collezionare figurine, e soprattutto qual è la prima impressione dalle telefonate che ha ascoltato finora? Dunque, mi ha fatto molto piacere la sua introduzione, perché è stata molto corretta. Io invece appartengo al genere che le figurine le collezionava con religioso stupore. È vero, continua a farlo anche adesso. Rubato una figurina anch'io da un album di una mia cugina, per dirne una. Beh, un peccato veniale, se lo ricordo, io ne ho rubate talmente tante che non potrei ricordarlo. Così, e volevo dirle che le figurine avevano sicuramente un interesse didattico prima dell'esplosione della televisione, perché così si imparavano le bandiere, le razze umane, la geografia, gli animali, c'erano molti più generi che non i calciatori. Io ho 67 anni, quindi ho vissuto proprio il primo periodo dopoguerra e quindi ricordo bene l'esplosione delle figurine e per questo ho voluto costruire un museo in cui i visitatori potessero rivedere gli album della loro infanzia. Ecco, noi parliamo di figurine nate nel dopoguerra, ma io ricordo, lo saprà anche lei essendo perugino, che in realtà la figurina è uno strumento che, di intrattenimento, di concorso, che risale anche a prima. Le famose figurine con il feroce Saladino dell'album della Perugina, dei Quattro Moschettieri, appassionarono l'Italia in anni precedenti. Certamente. La storia delle figurine d'anteguerra è molto complicata, però nel mio museo ci sono addirittura due schede storiche con molte immagini, abbiamo cercato di ricostruirla. Però la figurina, io per una certa distinzione, era intesa semplicemente come una prova d'acquisto. Era un tagliando che era legato a prodotti dolciari, alimentari, certo, sì, come sì. Queste figurine, e legate a concorsi. Non erano apprezzati in sé, gli album d'anteguerra sono genericamente abbastanza brutti, e quindi è una storia un po' diversa. Venivano... Invece le vere figurine di cui parliamo, quelle che, su cui ci intendiamo tutti, era un escamotage dell'Italia che rinasceva al dopoguerra, come il fotoromanzo, come tante altre, per ricostruire dei supporti fantastici, delle immagini, delle iconografie, i momenti in cui ancora non c'erano strumenti costosi e raffinati. Quindi con le figurine, senza doversi comprare le enciclopedie che verranno poi, senza avere necessariamente tanti libri in casa, si mettono insieme dei piccoli strumenti didattici, quindi. Perfetto, questa è esattamente la mia la sua impressione. Teoria. Erano a colori, erano bellissime, erano come libri illustrati che uno costruiva un po' alla volta e poi ricordava tutto il lungo periodo di completamento, di scambio, di gioco. E invece quelle dei calciatori, diciamo quelle sportive, che sono quelle più conosciute e più ricordate. Certamente. Quelle c'erano anche prima di Panini, io infatti ho parecchi album che ho fatto ancora da piccolo e poi Panini dal 61-62 ha più o meno monopolizzato il mercato dei calciatori, però gli album sportivi sono tantissimi. Infatti corrisponde più o meno con i miei primi anni delle elementari, io ricordo infatti quando arrivavano le prime figurine, erano molto più semplici rispetto a quelle d'oggi, cambiava anche, diciamo, l'inquadratura, il taglio, il giocatore era rappresentato a tutto corpo, se no c'era un primo piano, se non ricordo bene, e poi c'era la famosa paginata della squadra che era fatta di tante figurine che si attaccavano insieme. Esattamente, esattamente, ed erano secondo me ancora molto belle, per questo ho gradito scannerizzare tutti questi album, è stato un gran lavoro e sono tutte oggi visibili. Sì, infatti sto guardando il suo album, è qualcosa di enciclopedico veramente, c'è tutto. Cioè. Pur avendo 67 anni ho fatto anche l'ultimo album Panini 2010. Quand on s'est connu, quand on s'est reconnu, pourquoi se perdre de vue, se reperdre de vue, quand on s'est retrouvé, quand on s'est réchauffé, pourquoi se séparer? Melog 2.0. Elle avait des bagues à chaque doigt, des tas de bracelets. 800 24 00 24, stiamo rimettendo assieme dei ricordi fanciulleschi transgenerazionali che si appoggiano sul cartaceo supporto delle figurine. Ma figurine è un termine che può essere applicato a tante categorie di supporto dell'immaginario. Siamo partiti dalle figurine, quelle classiche, quelle dei calciatori, quelle che si usavano per i giochi di scambio ai tempi delle scuole elementari, continuano ad essere usate come tali. Però mi sto rendendo conto che nella evoluzione della figurina, di cui già ho parlato all'inizio, questo cinquantennario della Panini, che è il più grosso classico produttore di figurine, trovavamo tutte le figurine Panini, che è passato al supporto in corporeo, al supporto in concreto, al supporto iPad, iPhone, la figurina virtuale, già le antiche figurine cartacee avevano aperto perlomeno le nostre capacità di interscambio di quello che oggi viene chiamato social networking. In realtà le figurine erano uno strumento di socializzazione, un po' come quando oggi su Facebook si taggano le foto, cioè su una foto che noi abbiamo nel nostro profilo mettiamo il nome dell'amico o dell'amica o della persona che vogliamo che la veda o che vogliamo che partecipi comunque all'esposizione di questa nostra foto, corrispondeva allo scambio delle figurine. Ognuno di noi aveva un patrimonio di strumenti relazionali potenziali in tasca, che era il paccone delle figurine da scambiare con cui poter giocare, che incontravano degli incastri felici nell'altrettanto pieno di attese pacco di figurine che aveva in tasca il nostro amico. Quindi quando si incontravano questi due grossi oggetti che contenevano tutte le speranze, l'immaginario, le squadre del cuore, i calciatori preferiti, i personaggi a noi più cari, nell'incrocio, nello scambio, nella sovrapposizione o anche nella randomica maniera di giocarci, quindi di prendersi quelle di quell'altro, c'era una prima possibilità di socializzare. Quindi le figurine sono anche un grande e profondo allenamento al social networking, se no non mi spiegherei come mai, è uno dei tanti motivi, cinquantenni oggi riescono facilmente comunque a usare strumenti informatici di cui non hanno mai avuto basi genetiche. Anna, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno signora Nicoletti, molto piacere di parlare con lei, anche se mi sento un po' in soggezione. Perché? Per il suo sapere. Ma io sono di un'ignoranza totale. A scuola, ma adesso vorrei sfatare... mia è senza lacune. Sì, ma vorrei sfatare questo mito, perché è facile paraculeggiare quando uno parla alla radio e c'ha davanti acceso Wikipedia e poi ogni momento citare qualunque cosa, io semplicemente... Io non ho computer, non ho niente. Sì, vabbè, adesso non giochi a fare la vecchia abbandonata. Volevo dire, credetemi... No, volevo dire solo questo. Finisco anche... A scuola ero quasi sempre l'ultimo, mi sono laureato a calci nel sedere, non sono per nulla enciclopedico, riesco a chiacchierare e a gettare fumo negli occhi, lo dico per candore e sincerità. Avanti, Anna. Allora, dicevo che per quanto riguarda le figurine, il mio ricordo è legato a quando avevo circa 11-12 anni, quindi siamo nel 52-53. Ho 70 anni, qualche volta, non so se lo posso dire, ma rubavo qualche liretta dal salvadanaio, diciamo, di mamma e papà, per andare a comprarmi queste figurine, perché soldi ce n'erano pochi, e quando scendevo dal tram per andare a scuola entravo in questo mercato rionale al coperto e io non ricordo se scambiassi le figurine, sinceramente. Erano queste figurine che raffiguravano, mi ricordo, fiori e uccelli, che poi mettevo erano quelle, diciamo, per le ragazzine, per future donne che collezionavano fiori e uccelli rigorosamente con la coccolina sull'album. E però quello che mi è rimasto impresso è, come dicevo alla redattrice, è un odore di mercato rionale al coperto, nel quale si mescolavano gli odori della carne, della frutta, dei salumi, dei formaggi, e io le comperavo dentro questo mercato. Non ricordo se ci fosse un banchetto, qualcuno che vendeva un'edicola, non lo so. E a me richiama sempre alla mente questo odore, più che la passione per la figurina. Lei è molto, molto fortunata, ha il dono della sinestesia, cioè lega a dei ricordi diverse impressioni sensoriali. Legare all'aspetto tattile, l'aspetto olfattivo, l'aspetto visivo, cementa ancora di più il ricordo. I nostri ricordi in realtà sono multisensoriali, però noi ci ricordiamo sempre una dimensione a seconda della nostra attitudine. Io ricordo l'odore della colla, ad esempio. L'odore è il sapore della colla, perché la coccolina ce la mangiavamo, non so se anche lei capitava. C'aveva un sapore di mandorla, era squisita la coccolina. Mi sono mangiato chili di coccolina io, ma come non tutti quelli della... certe capacità come che sono riconosciute alle vernici o che no, sono non era allucinogena, no, quella era il Bostik, ma venne in epoca. Allora, le dico le colle come si usavano: la coccolina si mangiava, il Vinavil si spalmava sulle mani, si aspettava che si solidificasse, quindi si spellavano le mani, c'era il gusto dello zombie spellato. Poi le generazioni più bruciate andarono avanti, si sniffavano Bostik e tutte le colle sintetiche. No, io comunque non ho mai mangiato la coccolina, ricordo l'odore di mandorla, ma io sono decisamente più vecchia di lei, quindi forse non si faceva a quei tempi. Eravate molto più morigerati di noi, invece la nostra gioventù bruciata per la trasmissione. Mangiava la coccolina. Ilaria, avanti, Ilaria. Sì, buongiorno Nicoletti. Che figurine ricorda? Ma ricordo a casa di una zia, in una scatola di metallo, le figurine di carta del detersivo Miralanza, con un'olandesina con un cappellino improponibile che magnificava bucati con delle cose un po' bucoliche, dei paesaggi con i mulini a vento e bucati stesi, qualcosa. Sì, l'olandesina, sì, fa parte, erano le immagini che rappresentano il nitore, la pulizia, la freschezza. E poi con questo cappellino immenso, con tutte le sue puntine bionda, con le treccine. E gli zoccoli, naturalmente. E gli zoccoli, mi ricordo la zia aveva una scatola di latta piena di queste figurine, e quando si apriva, è un po' il ricordo della signora di prima, c'era questo odore di detersivo, di pulito, che impregnava proprio tutta la stanza, una cosa quasi... Come tutte le zie, vi ci faceva giocare e poi se le riprendeva, le teneva... Esattamente, in... non si potevano né toccare né scarabocchiare, sì, né guai... Gli zii avevano dei paradisi per intrattenere i nipoti, che poi non concedevano mai. Uno andava a casa della zia e c'aveva i giocattoli, colori, penne, però non si davano, si tenevano sempre lì, era una sorta di elemento di attrazione, ma era soltanto a tempo determinato il piacere. Belinda, finalmente un po' di donna. Eccomi, sono riapparsa. Sì. Io ho 59 anni e sono l'ultima di 7 fratelli, quindi ho visto figurine di tutti i tipi ed ero incaricata di andare a sgraffignare da qualche parte degli album, delle figurine degli altri. Poi c'era una mia sorella che era esperta nel fare cambio con le figurine, con quei bambini che ne avevano tante, quelli che i genitori davano tanti soldi. Quindi i fratelli infami usavano le sorelle come matari, come delle spie oltre le linee? Sì, perché io poi conosco tutti gli album delle figurine, Bambi, Biancaneve, Anita Garibaldi, ho stampato nella mente, infatti questa trasmissione mi ha talmente... fatto venire ricordi, ancora ho davanti l'immagine con Garibaldi, con Anita che sta morendo, quindi ce l'ho proprio, oppure Bambi nella durante pineta. L'incendio, ho le figurine proprio tutte davanti, a memoria, io quando vedo un cartone di quelli di Walt Disney vecchi, vedo tutte figurine, io non vedo i fotogrammi. Lo avete trasformato in figurine, perché diciamo, sì, il ricordo della figurina si sovrappone, sì, al ricordo. E poi era film. Un rito, quando io tornavo a casa, casomai avevo delle figurine, era un rito mettersi sul tavolo della cucina con la colla, parliamo ancora della colla, acqua e farina, certo, perché c'era la coccoina, però quella era proprio... noi giocavamo con l'acqua e farina, io insegno, quindi so che cosa vuol dire per i bambini fare da soli una colla. Lo so, oggi è quella lì che... era che mia sorella era... Art Attack è la colla vinilica che usano in tutto. E cospargi, sì, di colla vinilica. Mettici, sì, la carta igienica e cospargi di colla vinilica. Allora, sì, si faceva con l'acqua e la farina. Sì, sì, ma io la cosa bella era che mia sorella, che è più grande di me, aveva un'amica ricca, diciamo, per quei tempi si poteva chiamare ricca, che aveva pacchi di figurine immensi da fare gelosia a chiunque. E lei prendeva le figurine e faceva, facciamo a cambio... Lei ne aveva 4-5, mia sorella, non è che ne, essendo 7 figli, di figurine ne potevamo avere poche a testa. E lei andava, diceva, ce l'ho, mi manca, poi faceva cadere una o due figurine per terra. La compagna si inchinava per raccoglierle e lei ne sgraffignava una bella manciata e se la metteva sotto l'ascella, quindi, ma con una velocità che... Lo so. Non si può descrivere, cioè dirlo adesso è rubare, ma non era rubare a quei tempi. Era proprio... erano i primi sintomi di lotta di classe. Sì, era proprio come dire, ma tu ce ne hai troppe, non puoi avere un pacco di figurine così e noi averne di meno, quindi era proprio... Sì, diciamo la verità, per il bambino ricco era una stupidaggia, il padre gliene comprava un pacco pur di farlo star buono. Sì, no, pur di farlo, a me davano, vai a comprare un pacchetto di figurine. Era una cosa, come ha detto lei prima, che si apriva il pacchetto con un rituale, invece questi qua l'aprivano, addirittura prendevano il bordo e aprivano 4-5 pacchetti insieme. Ma era un dolore per me. È uno schiaffo alla miseria, io riesco a capire. Luca Mencarodi, buongiorno. Luca Mencaroni, un altro degli esperti di figurine, autore di un catalogo scritto con Luca Valtolina dedicato agli album di figurine, 2 volumi di 200 pagine ciascuno. Vede che stiamo affondando le mani fino ai gomiti nel ricordo collettivo di tutte le generazioni e soprattutto di tutti i generi, uomini e donne. Certo, ma diciamo che la figurina ha abbracciato un arco di tempo veramente esteso e quindi si va già dai primi del Novecento sino ad oggi, quindi naturalmente le generazioni che si sono interessate delle figurine sono molti. Ecco, ma come ha segnato, diciamo, le generazioni dal dopoguerra in poi, che sono quelle che ancora hanno possibilità di esprimersi in maniera abbastanza lucida, quelli di prima non lo sappiamo, questi dall'Italia del boom all'Italia del digital divide superato attraverso Facebook e l'iPhone 4, c'è un periodo lungo in cui gli italiani hanno fatto un uso collettivo di questi strumenti, sia di divertimento ma anche di socializzazione. Sì, è d'accordo su questo? Sì, perché probabilmente la figurina rispetto a molti altri termini collezionistici è quella che più faceva socializzare, perché permetteva lo scambio, permetteva diciamo questa possibilità di io ti do una tetto, non me ne dai una che manca a me, quindi era un mezzo se non altro per socializzare. Teniamo anche presente che poi fino agli anni 80 i mezzi di divertimento dei bambini erano molto limitati rispetto a quello di oggi. Se diciamo che la capacità di avere un ruolo sociale nell'enclave scolastico era dal numero di figurine che si riusciva a mettere in gioco nel grande mercato collettivo. Ci sentiamo tra un istante anche con Luca Mencaroni dopo l'informazione del traffico. Quand on s'est connu, quand on s'est reconnu, pourquoi se perdre de vue, se reperdre de vue, quand on s'est retrouvé, quand on s'est réchauffé, pourquoi se séparer? Melog 2.0. Elle avait des bagues à chaque doigt, des tables. 800 24 00 24, sto seguendo su Facebook le peripezie di tanti nostri ascoltatori per completare gli album delle figurine. Più fortunati avevano genitori intraprendenti che alla fine scrivevano alla Panini a Modena e si facevano mandare le figurine mancanti, quindi intervenivano con un budget familiare alle finanze del figlio che doveva concludere l'album. La conclusione dell'album sembra di essere uno degli esempi più irraggiungibili. In realtà la maggior parte delle persone, perlomeno nell'indicatore che ho questa mattina sott'occhio, prendevano le figurine perché erano strumento di socializzazione. Luca Mencaroni invece, come ho ricordato, lei ha scritto un catalogo corposissimo di album di figurine. Di tutti gli album che lei ha messo insieme, ha collezionato, quindi fa parte dei collezionisti, qual è quello più singolare, più strano, quello che esce un po' fuori dai canoni più conosciuti di collezionisti di figurine? Ma diciamo che la tipologia è abbastanza uniforme, possono variare eventualmente per il formato anche delle figurine stesse, perché esistono poi delle figurine che sono grosse quasi quanto un quaderno, però me ne ricordo, sì, erano rare quelle. Però ecco, diciamo, sono eccezioni, insomma. Ma la rarità della figurina era determinata dal fatto che ne mettevano veramente meno in commercio, o era casuale? No, diciamo che Panini fu il primo a utilizzare delle macchine specifiche che riuscivano appunto a fare una tiratura più bassa di alcune figurine. Prima di Panini si può dire che questo dipendesse più che altro dalla distribuzione, quindi anche dalla casualità. Ah, quindi c'era la volontà di creare i pezzi rari. Sì, ecco. Sì. Panini è stato il primo vero industriale della figurina, perché ha creato un sistema di rarità. Secondariamente ha permesso, con la richiesta dell'arretrato alla casa editrice, ha permesso, diciamo, poi di venderti il numero che ti mancava. Quindi ha fatto, diciamo, un guadagnandoci di più, naturalmente, chiaro. Una mossa economica, però molto intelligente, perché poi però nella liceità del mercato, esatto. Creava più attenzione e quindi anche più divertimento. Certo, poi ti permetteva di concludere l'album con le spese, appunto, di spedizione. Sì, che è una cosa che tra l'altro ho continuato tuttora, perché oggi se lei dovesse completare un album di calciatori dove ci sono oltre 600 figurine, cioè gli costerebbe una follia, insomma, ecco, è molto più conveniente richiedere all'editore, naturalmente. Però poi, insomma, ecco, c'è appunto il discorso di divertimento del ragazzino che scambia e che quindi appunto si confronta con i suoi amici di classe, i suoi compagni di gioco a fare questi scambi. Ecco, volevo a questo punto, visto che cominciamo a entrare anche nell'ambito delle figurine con cui giocano gli adulti, che naturalmente possono investire molto di più di quanto investe un ragazzino o poteva investire un ragazzino. Ho al telefono un amico, abbiamo sentito giorni fa per un altro tipo di trasmissione, che è Fabio Felici. Fabio Felici, buongiorno. Ciao, buongiorno a tutti gli ospiti. Fabio Felici è direttore dell'agenzia di stampa Agicos, si occupa di gioco, ma di altro tipo di gioco, però è anche collezionista di album Panini, quindi devo richiamarti, Fabio, sulla questione. Tu quanti album hai? Io ne ho 47 su 50. Quindi quasi tutti li hai? Quasi tutti gli olio, tutti quanti completi, celofanati, come fossero delle verità. Li tratto come fosse il Penny Black o il Gronchi Rosa, fra i francobolivari per me hanno la stessa validità. Ecco, su te quanti siete in Italia a avere tutti gli album della Panini? Guarda, credo che averli tutti siano in pochi, perché soprattutto i primi album, parliamo quindi degli inizi degli anni 60, all'epoca non si sarebbe mai pensato che un mercato del collezionismo così fiorente sarebbe venuto negli anni successivi. Quindi chi li ha tutti e soprattutto li ha completi e siano veramente in pochi, perché poi tra noi collezionisti va anche molto il fatto di avere il pacchetto allegato all'album, quindi non solo collezioniamo gli album completi tutte le figurine, ma è possibile anche un pacchetto, e trovare oggi un pacchetto del 61-62, c'è un pacchetto vergine chiuso ancora, esatto, qualcuno che si sia tenuto un pacchetto chiuso per 50 anni credo che sia veramente una rarità. Ci sono pacchetti che arrivano a costare 200-300 euro, perché sono anche delle rarità. C'è un pacchetto del 76-77, una stagione in cui i pacchetti evidentemente ne sono stati prodotti di meno, che oggi se si va su qualsiasi sito di aste online si paga 150 euro quanto bene. Quindi la tua collezione quanto può valere all'incirca? Io credo che sia ora 10.000 euro. 10.000 euro. Quindi, ma erano gli album con cui giocavi da piccolo o diciamo da grande, cominciato da adulto ad acquistarli, a collezionarli? Stai aprendo una ferita, perché purtroppo gli album di quando ero ragazzino, che ovviamente li collezionavo, non ci sono più, perché i genitori tendono sempre a farli scomparire perché danno fastidio dentro casa. L'ho ricominciato a fare da grande con mio figlio, e ti faccio un esempio: l'album del 64-65, quindi uno dei primi che venne fatto da Bannini, siamo arrivati a pagare oltre 1.000 euro da un collezionista, quindi diciamo che poi iniziano a diventare anche cifre importanti per avere la possibilità di completare la collezione. Ecco Fabio, se tu dovessi completare la tua collezione, quindi acquistare anche due album completi con pacchetto che ti mancano, quanto dovresti investire? Guarda, mi mancano quattro album, i primi tre, e quindi lì andiamo a una media di 2.500-3.000 euro ad album completo, e poi c'è un album che per noi che si chiama questa collezione mitica, del Messico 70, il primo album dedicato ai mondiali, Messico 70, parliamo del famoso Italia-Germania 4-3, e quello è un album veramente quasi introvabile, è un album che si aggira anch'esso intorno ai 3.000 euro, quindi diciamo ci vorrebbero altri 10.000 euro per completare 10-15.000 euro ci vorrebbero. Esattamente. Beh, in bocca al lupo, spero di riuscire, che tu ci riuscirai a farla e a finirli. Grazie Fabio. Grazie a voi. Alice, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a lei. Io ho chiamato prima per dire alla signorina che non avevo sentito nominare gli album degli attori di Hollywood. Io ho 71 anni e nel 52-53 abitavo a Mirandola, in provincia di Modena, e lì c'erano questi album per ragazzine, per bambine, e si sognava su questa miriade di attori, perché erano veramente tanti, belli, quelli dei film di una volta. Diciamo che era l'allenamento al fotoromanzo, ecco. No, più che l'allenamento al fotoromanzo, era proprio il sogno su questi qui che facevano i film, perché poi di fotoromanzi nessuno di noi li ha letti, erano foto con nome e cognome sotto. Quindi vi serviva per sognare sui grandi divi di Hollywood. Voi ragazzine, lei poi abitava vicino a Modena, quindi aveva la fonte primaria a portata di mano, i primi sogni sugli irraggiungibili eroi del cinema li facevate collezionando figurine. Carlo, buongiorno. Buongiorno. Questa grazie, è vero, me la ricordo, grazie. Questa me la ricordo. Le figurine, grazie. Le famose figurine dei preti, eccola. Lei cosa collezionava? Io ho collezionato e mi ricordo ancora nitidamente le figurine che venivano tratte dai fotogrammi di Marcellino Pane e Vino, per esempio, e che era uno dei film che vedevamo nelle parrocchie. Certo, un Lacrima Movie favoloso, bellissimo. Guardi, è una cosa. E a parte, ripeto, la sua trasmissione stamani mi ha riportato indietro, risentivo gli odori anch'io della coccoina, di tutto quanto, e quindi è veramente stata graditissima. E questo fatto però di vedere, di controllare questi, rivederlo, perché ero riuscito a farlo tutto questo album, praticamente ogni tanto andavo lì e mi rivedevo il film, perché ritrovavo quasi le sensazioni di vedere il film. Beh, è favoloso vedere Marcellino, l'orfanello preso dai frati, che moriva e poi risorgeva, poi moriva, poi rinasceva, poi moriva, poi rinasceva, una sensazione unica. Grazie Fabrizio Intonti, grazie Valerio Rocchetti, grazie a tutti gli antichi collezionisti che questa mattina ci hanno dato un lampo della loro fanciullezza ormai perduta. Alors tous deux on est partis dans le tourbillon la vie. on a continué à tourner, tous les deux enlacés, tous les deux enlacés.